Sarò l'acqua, forse non sarò. sognare in un cielo d'asfalto. Libertà della fede verso un Dio senza ombra, libertà della vita che nessuna è di tutti, dove tutti sia uno. Sarò l'acqua che lo sveglierà, sarò corpo letto è. Il silenzio buio, mille voci dentro è. Pochi metri d'aria, sistema piano mi consumerà. Ho mangiato il vuoto, ho mangiato l'utopia. Chiuso perché ho colpa, pian piano se ne va. quantità, capamme dall'occhio, e cate scunzulate, e femmine aiutate, e vieni a fare manuocchio. Si guaglione, via con la buona raffa, grisce sempre stessa di amudere. Stava viva e non si cambia più, la mangi su le prete, tipo da prometto possa aiutare, tormento pura rete, così fidata sempre che la gente, che quando sale il corpo non ti sente. Chi no cuore dalla vanità. Buona pulita nessuno, nessuno, solamente in preda. Chi vota prometta, passa parità, prometto, metto, metto, metto una rete. Quando chiama si esce sola, ma comincia a aiutare. Thank you. Un paesaggio di neve bianca, spazi immensi, odore d'erba, colori di speranza e gioia. La montagna che suda per partorire il figlio suo. Tu sei il fiume che nasce dal suo ventre, inizi il tuo cammino come il germoglio d'un sorriso. Il tuo corso sarà scelto dalla forza del sudore, guarderai con occhi vivi il tuo liquido fluire, i tuoi salti, la tua calma, la violenza e poi la sete, la tua voce a braccia aperte, la fusione con il mare. Dare amore o dare rabbia, sarai vita o sarai guerra, sarai un uomo che vive e canta, ama, gioca la sua parte, nasce nel mondo d'aria, vive di lui. Il tuo corso sceglierà la forza del sudore, guarderai con occhi vivi il tuo liquido fluire, i tuoi salti, la tua calma. La fusione con il cuore. volesse caricista, sempre che le cadu sienta, ci volesse una fatica, senza l'ombra no padrone, ci volesse che sta vita fosse tutta una canzone, ci volesse una iucata, quanto numero a fortuna, ci volesse renare, per campare vicino a luna, ci volesse che sta gente fosse sempre più felice, ci volesse, ma si fatta chi te dice, ma chi sì, che grida ancora che cosa, cara ne forna, con cagli sta musica non si vera non si crea che sti speranze non arrabbano in cielo, oh, ma chi sì, che grida ancora sti cosa. Cosa? Perdoni e basperà.